No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siete l'abisso, veramente, l'abisso dell'ignoranza, e purtroppo chi si specchia dentro di voi viene preso in questo vortice di ignoranza borghese, piccolo borghese, voi e le vostre Hogan di merda, veramente, cioè, tremendo, e Parenzo, poveraccio. Veramente io le Hogan non le ho mai messe in vita mia, però va bene, per carità. Boo. Ho fatto una buona azione! Ho salvato un Bambi! No! Giudice, un colpo di fortuna, altro che bacche! Catturato sta bacchietto indiano, è quasi cotto, eh? Ma come ha fatto? Mi è venuto a leccare le mani, ha acchiappato e gli ho dato una mazzata e ho sfrantumato le cervella! Beh, almeno non ha sofferto, un colpo secco e... Ma quale colpo secco? Una faticaccia, c'è 7 vite, sto figlio della mignotta, continua a zompettare! Però adesso se magna, vuoi favorì? O preferisci la destina? È delicatissima la succhia! A tanti gli piaceranno, a me non mi sconfiggerà, c'è quella cidula. Questo era il mitico Christian De Sica, sì, sì, che se bagnava la bacchio. Ogni riferimento ai signori animalisti barra vegani è puramente casuale in questa trasmissione. Sai che mi viene voglia di non parlare mai più dei vegani? Sì, cioè basta. Tu non hai idea delle cose che succedono sul web e che riguardano il sottoscritto. Un po' godo, devo dire la verità. Un po' mi preoccupa la cosa. Ci sono delle cose di una tale violenza che nemmeno io sarei capace, capito? Che pure, per carità, mi piace il confronto forte, aggressivo, mi piace la dialettica, però mi piace la dialettica, capito? Mi piacciono anche i tribuni. Ma alcuni di questi sono matti, eh? Ma no, tu non hai idea, se tu vai su certi siti, tu non hai nemmeno idea di quello che dicono del sottoscritto, che delle cose tremende, tremende. Bisognerebbe fare una raccolta, anzi un libro, I nazi vegani, un libro bellissimo. Tutte le follie dei vegani. Vabbè. Intanto, in provincia di Savona, in un piccolo paese in provincia di Savona, c'è un consigliere comunale della Lega Nord che appoggia apertamente un prete che è stato condannato per pedofilia, cioè manda una lettera a nome dei parrocchiani in cui chiede che questo prete non sia spostato nonostante una prima condanna per pedofilia e altre accuse che gli piovono sulla testa. Cioè un prete apertamente pedofilo per avere commesso degli abusi nei confronti di bambini sotto i 14 anni all'inizio degli anni 90 e poi accusato nuovamente negli ultimi anni. C'è un signore della Lega Nord, ma potrebbe essere anche di un altro partito, sì, uguale, no, che a nome dei parrocchiani chiede che questo prete resti perché dice si è comportato bene in parrocchia negli ultimi anni. E chi se ne frega, sempre di prete pedofilo si tratta. Allora, dopo essere stato da noi ieri sera, Giampiero Mughini scatenato a Ballarò, i sindacalisti se la prendevano con me perché ho una pensione di 3.500 euro, che per lui oggettivamente non sono tantissimi. Mi sono trovato sindacalisti che quasi mi additavano parlando di pensioni lorde di 3.500 euro come pensioni d'oro. io ti ammazzo. Se tu mi dici questo, ti ammazzo. Però... ti ammazzo perché io so quello che ho pagato. Io ho più di 3.500 euro lordo. Ma questa idea che c'è un limite della ricchezza, dell'agio, del vivere di mignotta e champagne con 3.500 euro è da pagliacci. Non c'è dubbio. È chiaro? Con Giannini impauritissimo, dire non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, scontri televisivi, scontri televisivi. Andiamo con Travaglio versus Fiano. Fiano. Fiano che non si capisce se resterà candidato a Milano sindaco. Per ora sembra di sì, no? Sì, ha detto ci devo pensare, lui, eccetera. Maiorino. Ma in realtà Maiorino resterà sicuramente, ci saranno delle primarie, forse primarie farsa a Milano, perché magari Renzi vorrà incoronare Sala, ma questo chi se ne frega, vedremo più avanti, mancano ancora tanti mesi. Comunque Travaglio versus Fiano. Mentre sprofondavamo e questi vedevano delle luci in fondo al tunnel, probabilmente drogandosi, prendendo anche roba molto pesante, siamo arrivati secondo me anche chi non la vede si droga comunque, siamo arrivati, perché cambiare un segno più con un segno meno o effetto di facciamo finire Fiano, poi allucinanti o cattiva fede. Se dovete fare sempre questa propaganda insopportabile. No, è aritmetica, non è propaganda. Sta andando tutto bene. Algebra. Tanto la gente lo sa, se ne accorge lo stesso che non è vero. Quelli che adesso non lo voi potete ripeterlo a reti unificate, ma la gente lo sa che non è vero. Trovo una soluzione radicale. Potete sparare tutte le cazzate del mondo, ma la gente lo sa che non è vero. La gente che oggi ha un contratto che non aveva, lo sa molto bene. Non vi parlate sopra. Ma scusa, c'è una soluzione radicale. E candidati. A Travaglio fa molto piacere poter parlare in qualsiasi trasmissione sia invitato male di Renzi. Ognuno ha i suoi hobby, Travaglio ha quello, io guardo i numeri, Travaglio guarda i suoi nemici. Io no, guardo lei è pagato, ciò che di... lei è pagato per parlare bene di Renzi. No, no, no, mentre io sono pagato dagli italiani per libera. Fare le leggi in Parlamento. Mentre io sono una persona e lei dovrebbe libera. Stare attento da chi non offende. Io non sono candidato. Non sono pagato da Matteo adesso Renzi. Sta a vedere che lei io sono pagato per fare le leggi. Lei non sono pagato. Devo mandare la pubblicità. Lei non è stato da Renzi al sindaco di Milano. Lei siccome non ha altri argomenti. Devo mandare la pubblicità. Inizia ad offendere. Però combatteva il signor Fiano, combatteva come un leone, ma si parla molto, soprattutto sul web, devo dire, dell'abito che Daniela Santanchè ha indossato, caro Parenzo, ha indossato sì, alla prima della bellissima. Scala, addirittura la Ceres, non si capisce se è positivamente... No, la Heineken, se mai... No, la Ceres, credo, la Ceres, non hai capito, don't drink and... perché non sai mai niente? Hai sbagliato, è la Ceres. Santanchè, buonasera, buonasera. Buonasera a lei a tutti, buonasera. Allora, anche la Ceres, don't drink and la Scala, cioè dire, fa capire che lei era un po' ubriaca, forse, era ubriaca per mettersi quel vestito? Ma no, un paese di bigotti, di conformisti, di omologati, cioè non riescono a capire, siccome ci vuole l'abito di ordinanza, l'intelligente, radical chic, io da sempre combatto il conformismo. Ma Parenzo è piaciuto? Mi sembrava di essere così normale, semplice. Una Beh, cosa semplice. Una non c'è adesso nessun... semplice no, di semplice c'era solo la camicia bianca. Poi è c'era... il web che è impazzito, non la sinistra, i conformisti, cioè quello non c'entra niente la sinistra questa volta. Anzi, a Parenzo è piaciuto, mi sembra. No. Assolutamente sì, adesso io. No, Parenzo gli è piaciuto. Sì, a Parenzo è piaciuto. Mi è piaciuto. Diamo una notizia. Non vorrei danneggiarti, ma mi è piaciuto, l'ho detto subito. Veramente. Non vorrei crearne. Non lo consiglierei a nessuno, ma mi è piaciuto. Cioè, tu faresti andare la tua fidanzata. Ma anche perché non è facile indossarlo. No, ma dico. Siccome cioè, la in che senso non è facile? Nel senso che ci vuole carattere per metterlo. Non è ironico. Cioè, oggi sei praticamente l'ufficio stampa della Santanchè, Parenzo. No, ma è evidente che ognuno. Ma anche Parenzo mi ama, ma questo è pazzesco. Ma io no, adesso questo Marsi, no, però anche Parenzo in realtà, contrario di tutti quelli che hanno detto, ma io sì, ne conosco moltissimi. Tu devi sapere qui in redazione, Parenzo, quando è uscita fuori la notizia di questo vestito della Santanchè, adesso senza fare nomi, perché per carità, eccetera eccetera, ma c'è stato un brusio. Ma avete visto la Santanchè come vestita? Ma che orrore! Ma perché orrore? Che orrore! Anzi. Io francamente ho trovato quel vestito certamente non casuale, cioè fatto apposta per scioccare, e però sì. Perciò si sbaglia, Cruciani. No, io ma non voglio mai scioccare. Vabbè, un no, po' sì, non dai. Non è nel mio modo di essere. Ma era un vestito fatto per fare impressione, dai, su, per creare. Ma ti figuri, non era fatto neanche per andare alla prima della scala, cioè? Era una gonna. Poi era verde, che il colore, voglio dire, come voi sapete, di che? No, di una parte che io, perché quest'anno dopo tanti anni sono andata alla prima della scala, e per un motivo molto semplice. E perché? Perché c'è l'ISIS che aveva dichiarato che la scala era un obiettivo sensibile. Vabbè, poi figuriamoci. Perché ci vogliono fare paura, vogliono quindi era che il noi verde cambiamo islamico. La nostra vita. E quindi io perché ho verde voluto era? Essere lì. Perché voglio dire, non abbiamo paura. Ma che verde era? Sì, era il verde della non bandiera islamica di Hamas, avanziamo. Non credo. Ma che verde era? Non ho capito. Il verde Hamas. Di verde vabbè, in Italia il verde mio, il verde mio, il verde Sant'Anchieta. No, ma c'è perché la bandiera. Devi sapere che c'è la bandiera di Hamas, sì. che è verde. Cioè, adesso che è il verde, verde in Italia verde. Uno si ricorda solo la Lega in realtà cioè, sì non ma che... non c'è più la Lega, adesso la Lega è nazionale, ma la verde è la speranza, è la speranza, la speranza verde, speranza. Ma chi l'ha fatto quel vestito, cultura, Daniela, chi l'ha fatto quel vestito? Un giovane stilista italiano che a differenza di tante donne Saint Laurent, Chanel, cioè, Dior, te lo sei fatto migliaia di euro. Sì, quanto è costato? Oltretutto ho speso anche qualche centinaia di euro. Quanto è costato poco. Esattamente? Molto poco, meno di 500 euro. Meno di 500? Beh, allora insomma. Meno, beh, non è poco, poco 500 euro. Adesso ho capito, beh, per insomma, un, sai che i vestiti costano migliaia di euro. Oh. Se li fanno fare mesi prima, e costano allora, anche 10.000 euro quei vestiti lì. Dico, viva l'Italia, certo. Viva i giovani. Vabbè, ma ci sono italiani. Pure. Cioè, non hai fatto, retrocediamo. Tu mi stai dicendo, hai fatto lavorare un giovane italiano stilista per farti questa gonna. Pagandola meno di 500 euro, vabbè. Allora abbiamo il traffico e poi no, torniamo. Tutto meno di 500 euro. C'è anche quella specie tutto, di pellicciotto pasta, che c'era là. Papillon, tutto. Ah, tutto. Vabbè. Viva l'Italia. Torniamo e tra un secondo. Non abbiamo paura. Vabbè, ma e quello, vabbè, d'accordo. Ma c'erano, era presidiato da migliaia di poliziotti. Era impossibile che succedesse qualcosa alla scala. Un attimo, che c'è il traffico, fermi. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Giova, la paura era così evidente che anche Daniela Santanchè, per il timore di attentati, si è presentata camuffata da albero di Natale. Però pare che nella notte l'ISIS abbia rivendicato la scelta del vestito della Santanchè. Questa era Crozza ieri sera, l'ha sentito Santanchè? Sì, l'ho sentito, fantastico, è bravissimo, io l'adoro Crozza, è un genio. Allora, è no. Un genio Crozza. Parenzo, però la notizia di oggi non si offende per la satira, da questo punto di vista è forte veramente la Santanchè, no, perché io non mi offendo, cazza, ma è andato anche Fiore alla Cortellese, mi diverto, io trovo che bisogna... Io combatterò sempre per la libertà di tutti, anche chi non la pensa come anche me. Quella di io voglio chiarire questo, il vestito sta bene la Santanchè su qualunque altra persona, perché ognuno che ne si sai veste... tu perché ho capito. Beh, no, se la mia fidanzata si mettesse quel vestito che lì, cosa, che cosa succederebbe? No? Sbarrerei le porte di casa. Ma voglio dire, ma adesso, ognuno... adesso siccome hai detto una cosa perché... positiva sulla no, sala, perché subito... ti spiego, ma ti dico io lo dico con affetto, perché ognuno ha una personalità e lei con quel vestito ha una personalità e lo porta dignitosamente, altre bene lo porta. Altre persone sarebbero ridicole, secondo me. La Santanchè è Santanchè, cioè è lei con le sue gonne, con le sue. La vera notizia è che a te quel vestito è piaciuto, e anche diciamo indossato dalla Santanchè, sì, indossato che so io da Donald Trump, no, da Donald ma come l'ha presa, signor dalla Sanussi, moglie di Pisapia? No, perché la moglie di Pisapia, giustamente, signora Sasso, è una signora che ha un altro taglio, un altro piglio, no? Perché hai fatto parli della moglie di Pisapia? Non ho capito. Al signor Sanussi è piaciuto oppure è rimasto male per tutta questa attenzione che c'è stata nei tuoi confronti, Daniela? Non ha commentato. Non ha commentato. Lui è molto parco. Era basito, secondo me. Poi lui è molto serio, è molto. Era basito. Ci sono dei montaggi, caro Parenzo, in cui c'è la foto di Sallusti messa al posto della Santanchè. È una cosa pazzesca. Sì. Anche un altro montaggio in cui c'è la Santanchè dentro un secchione dell'immondizia. Però non è la sinistra, cioè l'UE. Io guardate che ho fatto l'elogio alla plastica, oltretutto. L'elogio alla plastica, in che senso? Ah, beh, sì, quello. Sì, certo. Però è noiosotta questo. È un materiale, questo, no? Il meno inquinante, costruttivistica, io sono per la plastica, per la raccolta differenziata, per cui Parenzo, non è una cosa che hai detto, Parenzo, non ho capito. No, che credo che si sia fatta due palle, così sia lei che il signor Sallusti lì alla scala, dici. Alla scala di per sé, cioè l'opera di per sé, la Giovanna d'Arco di per sé. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Insomma, Giovanna d'Arco non so perché comunque. Senti, ma tu ti senti vicino alle posizioni di Trump? Oggi addirittura qualcuno l'ha paragonata al Mussolini. Trump. Gli Stati Uniti d'America sono una cosa molto diversa dalla politica nostra. Vabbè, d'accordo. Italiana. Però ha ti delle, piace ha qualcosa? Delle uscite molto forti, ci sono delle cose di lui che mi piacciono, tipo? Altre che non mi piacciono. Io poi lo conosco personalmente, lo trovo anche un uomo molto simpatico, molto capace, ha dimostrato nella vita di saper fare. Perché, insomma, Donald Trump non nasce Trump. No, è il suo centrodestra, è il centrodestra che sogna quello alla Trump. No, beh, lui dice. Ma il paragone con Mussolini com'è? Il paragone con Mussolini? No, credo che non ci azzecchi il paragone tra Trump e Mussolini. Cioè Mussolini è un'altra categoria, tu dici? No, Mussolini ha fatto degli errori, ma ha fatto tante cose che sono state buone. Poi ha commesso un errore fondamentale, l'alleanza con Hitler, se no sarebbe stata un'altra storia. L'omicidio Matteotti, insomma, comunque. Sì, però voglio dire, possiamo parlare di tante cose positive, luce e ombre, ma luce, insomma, ombre. Chi è italiano e che non riconosce che ha fatto delle cose giuste e non conosce la storia del nostro paese. Per cui è un'altra cosa, non c'entra niente con Trump. Non però quando Trump niente. Dice che bisogna sbarrare l'ingresso ai musulmani, cioè secondo lui i musulmani, perché dice non siamo sicuri, non vogliamo un altro 11 settembre. Ma dobbiamo bloccare internet anche voi, sto matto. Internet mi sembra una follia che non è possibile fare, ma bloccare, addirittura vuole un incontro con, abbiamo detto, ieri, no? Con Bill Gates, non so. Vabbè, bloccare la frontiera ai musulmani, è possibile farlo secondo te? Ma io dico che non è tanto una questione musulmani o non musulmani. No, ma è pazzo o no? Questa è pazzo o no quando dice questo? Il cardinale Bitti che ci vuole un'immigrazione compatibile. Vabbè, ma quello d'accordo, ma la frase di Trump è giusta o sbagliata quando dice che bisogna bloccare le frontiere? È realizzabile, perché siamo in un mondo globale, bisogna bloccare. Ma se diventasse presidente, d'accordo, ma se diventasse presidente saresti contenta se diventasse presidente? Ma no, è una cosa che non esiste, non si può fare. No, se diventasse uomini e donne del proprio tempo. Ma se diventasse presidente lui, se diventasse secondo me sbaglia fare queste esternazioni in questa maniera. Ma ti farebbe piacere? Perché le cose bisogna fare quelle che si possono. Che si possono fare, ma se diventasse presidente ti farebbe piacere o no? Calci nel sedere tutti coloro che non rispettano le leggi, le nostre tradizioni. Ma voglio dire, non puoi farmi dire una cosa che non penso. No, e chi te la vuole far dire? Perché? È una cosa che è irrealizzabile, dice una affrontata. A presto, ciao, a presto. Viva il vestito, viva il vestito. Bando agli ipocriti, chi se ne fotte di quelli che dicono il vestito. Ognuno mette il vestito che vuole poi, ragazzi, o no, Parenzo? Questo è fondamentale, ma scherziamo. A dopo. Vabbè, ma Parenzo lascialo perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack, we've never had it so good. Insultar Parenzo, comincia tu. Cruciani, hai rotto il cazzo, sei diventato vecchio e noioso, fuori dai coglioni. Siete criminali. Allora, caro Parenzo, c'è una storia incredibile che viene qui da Lecco, Lecco. Cosa è successo? Una storia del 2013 che però è assolutamente attuale perché ha una conseguenza proprio in questi giorni. Cosa è accaduto? Che un ladro, 2 anni fa, tenta di rubare in una piazzola ecologica comunale, e resta ucciso a causa della sua imperizia durante il furto, cioè praticamente non riesce a fare sto furto, muore praticamente all'interno di una specie di cassone ecologico, no? Di cassonetto ecologico. I familiari, di fronte a questa tragedia, minacciano addirittura di fare causa, questo un ladro credo romeno, di fare causa al comune di San Donato Milanese e alla ditta che ha fornito i cassoni per i rifiuti. Cioè, tu ti rendi conto, no? Un ladro muore. Beh, i rifiuti cosa vuol dire? Che non erano a norma, non erano. Che no, è successo? Perché sembra che questo specie di cassonetto non si chiudesse bene, una cosa di questo tipo. Cioè, e hanno chiesto prima i danni, cioè il ladro romeno muore. Per colpa di un cassone dell'immondizia, fa causa al comune, cioè l'avvocato pensa per conto dei familiari di fare causa al comune. Il comune risponde: senti, ma dove siete matti? E allora tenta adesso di fare causa all'azienda che fornisce questi cassoni. Non cassonetti. È sbagliato. Da un punto di vista tecnico, non è sbagliato. Ma come non è sbagliato? Che deve fare? Ma come non è sbagliato? La famiglia tutela la persona. Sì. Bisogna vedere se quel, però se quel ragazzi, cassonetto però, risulta non a norma. Ma stava rubando. Questo tizio stava rubando, non lo so in che in un modo. Cassonetto. Stava rubando. Già interessante. Uno ruba in un cassonetto. No, dai, ragazzi, su, ma non no, diciamo. Uno ruba, uno se ruba. Cioè, tu stai dicendo che questo signor romeno, la famiglia di questo signore romeno, che ruba, ladro, cosa c'è da rubare ladro? In un cassonetto? Cosa rubi in un cassonetto? Non lo so, comunque questo qua è rimasto ucciso. Sì. Fanno benissimo qua, a fare a esperire qualunque tentativo per prendere del denaro all'azienda. Questo qua giustamente è incazzato l'imprenditore. Dice: "Ma voi siete fuori di testa? Se ha fatto un cassonetto non è norma?" Ma può sembrare paradossale, però. Ma dai, su! La cosa incredibile che dice questo imprenditore è che l'assicurazione sarebbe anche disposta a riconoscere un risarcimento. Vedi. Per non aprire una vertenza giudiziaria. Però lui dice no! Ma voi siete completamente fuori di testa! La cosa incredibile è questa: ladro morì nel cassonetto, la famiglia chiede i danni. Io lo trovo una cosa talmente paradossale che la legge possa permettere una cosa di questo tipo. Cioè, tu stavi rubando, crepi in un cassonetto dell'immondizia, fai causa a quelli che costruiscono questo cassonetto dell'immondizia perché magari funzionava male, perché sei morto là dentro perché volevi rubare. Ma beh, un cazzo! Cioè, qualche volta veramente difendi l'impossibile tu, eh? Qualche volta difendi veramente l'impossibile. Ma tu mettiti nei panni dell'avvocato della famiglia che dice quello è morto, d'accordo, no? D'accordo, l'avvocato per carità, fa il suo mestiere. Ma intanto c'è anche questo. Però ma io non me la prendo infatti con loro, io me la prendo con le leggi che consentono tutto questo. Ma che vuol dire rubare in un cassonetto? Ma io non lo so se stava rubando in un cassonetto o passava nel cassonetto. Ma la dinamica sembra questa: se uno stava rubando da un cassonetto, allora dici che cazzo ruba in un cassonetto uno? Cioè, anche questo. Allora, la storia racconta questo, cioè le cronache raccontano questo. Nel settembre del 2013 alcuni ladri si introducono nella piazzola ecologica dove si trovavano dei cassoni per il deposito dei rifiuti. Forse volevano rubare dentro, che ne so, del rame o delle altre cose che avevano visto, non lo so. I cassoni certificati, ovviamente in maniera regolare sembra, e con il coperchio a chiusura idraulica, vengono forzati, probabilmente il coperchio è puntellato, mentre i ladri asportano il materiale di loro interesse. Ma qualcosa va storto, il coperchio cade pesantemente e colpisce uno dei ladri. Gli altri chiaramente se ne sbattono i coglioni del compagno, di quell'altro là accanto, e scappano e se ne vanno. La mattina dopo trovano il ladro morto là dentro. Ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, di cosa parliamo? Dai. E tu dici che fanno bene? L'avvocato, la famiglia sicuramente, la famiglia si deve avere giustizia. La famiglia dovrebbero stare zitti e basta, non rompere i coglioni. Hanno perso il figlio ladro, lo so chi sia. Non rompere i coglioni alla giustizia, far perdere tempo alla giustizia italiana, le scartoffie per ottenere un risarcimento con l'azienda che giustamente per togliersi dalle balle dice vi diamo 2000 euro, non rompete i coglioni, no? Però capisci che se questi qua pur di pensano di avere, hanno paura, pensano di avere torto quelli del cassonetto evidentemente. Che assurdo, però. Andiamo a Francesco da Arezzo, vai Francesco. Buonasera. Dimmi Francesco. Sono l'organizzatore di un'assemblea che si terrà domani ad Arezzo per i risparmiatori di Banca Etruria che sono stati rapinati dal decreto di Renzi, dal decreto Salva Banca. Sì, tra l'altro oggi un ex esponente, adesso torno subito da te Francesco, un ex esponente del Partito Democratico diventato invece un ultracattolico come Mariona Dinolfi, ha detto il governo... Ma è sempre del PD però, no? È sempre del PD. Il governo ha... ha fatto benissimo a salvare le banche, se lo sono mangiato su internet, il governo ha fatto benissimo a salvare le banche, viva il Partito Democratico, capito Francesco? Vabbè, comunque. Stanno svendendo le banche, stanno distruggendo le piccole popolari e nel prossimo futuro mangeranno anche le... Vabbè, quelle hanno fatto, quelle evidentemente hanno fatto le cazzate pure loro, queste piccole banche. Sono state gestite in maniera vergognosa, ecco, appunto, ma questo decreto salva le banche a spese in teoria, risparmiatori. In teoria salva in le teoria, banche, bisogna poi vedere. Poi spezzettano e le rivendono, non salva niente. Vabbè, domani che succede ad Arezzo? Domani sarà una mega assemblea di risparmiatori incazzatissimi che alzeranno la voce nei confronti di un governo che deve correggere questa schifezza. Sì. Senti, Francesco, quelli che hanno perso i soldi, tu hai perso dei soldi? Sì, in famiglia, tutti gli aretini hanno perso qualcosa, sono 24.000 gli aretini coinvolti. Sì, ma tu quanto hai perso? Parliamo di te, in lascia famiglia perdere. Circa 15.000 euro. 15.000 euro, sei incazzato anche con la Boschi, tu che è di quelle parti? Assolutamente sì, la Boschi ha sicuramente influito in negativo, il perché? Papà ha fatto il vicepresidente, perché sono sotto ricatto da Banca d'Italia che ha fatto questo disastro principalmente. Cioè in che senso sono sotto ricatto? Nel senso che la posizione delicata della famiglia Boschi ha sicuramente influito nel senso di debolezza nella, come dire, nel dialogo istituzionale con Banca d'Italia, che è la... Ma io questo non lo so, però una cosa è sicura, che in realtà per evitare problemi alla Boschi il governo invece adesso potrebbe intervenire in qualche modo, come ha detto anche il Ministro dell'Economia, intervenire per salvare tutti i risparmiatori, Parenzo, anche questo è interessante, se non ci fosse di mezzo... Beh, ma l'obiettivo unico dovrebbe essere questo, però. Sì, però in teoria uno potrebbe dire, i risparmiatori avevano degli investimenti a rischio, l'abbiamo già detto l'altra volta, e è finita lì, no? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Io non so, Francesco, lei quanto era stato informato dei rischi dei suoi investimenti. Le spiego, non si tratta di speculatori, si tratta di persone che hanno chiesto un mutuo e gli hanno detto: ti si dà il mutuo se mi prendi 20.000 euro di obbligazioni, sì, d'accordo, a garanzia. E questa è una vergogna. Do all'azienda, sì, certo. Non si tratta di speculatori o di giocatori di borsa, no. Non hanno perso i soldi perché è calata la borsa. Magari non erano hanno informati abbastanza sui rischi di questi investimenti, perché ma no, sono piccole banche, non hanno informato quelli che compravano queste obbligazioni dei rischi. No, guardi, assolutamente no, non si tratta di speculatori. Lei è un elettore del PD? No, io sono un esponente di assolutamente di tutt'altro. Cioè lei non ha mai votato PD, perché c'è un sacco di gente che ci ha chiamato in questi giorni. Di un altro partito, tutta evidentemente, la fa la sua battaglia contro il governo, vabbè. No, vabbè, che c'entra, è stato anche truffato, lui dice di essere stato. Dico, è legittimo. Il PD non è più un problema, insomma. È legittimo che lui faccia tutte le battaglie, adesso sparirà, vedremo. Però Francesco mi sta dicendo un'altra cosa, siccome molte persone ci hanno scritto, Parenzo, dicendo: io sono un elettore del PD di quelle aree, di quelle zone, non voterò mai più il Partito Democratico. Non ho capito cosa c'entra il PD, però, cioè si può attaccare il PD per ogni cosa. Stanno attaccando il governo che è espressione del Partito Democratico e che ha un solo obiettivo, per me. Ma lascia perdere, adesso questa è un'altra cosa, ma è normale che uno se la pigli col PD. Se uno se la deve prendere, uno può giudicare sbagliato, giusto o sbagliato, prendersela. Cioè il governo, qual è l'errore del governo? Questo uno non capisce. Il fatto di aver lasciato in mutande dei risparmiatori. Ma non l'ha lasciato, ecco, questo è il punto. Sì, non le ha lasciate, no? Il governo, sì, in mutande. Francesco, scusa Francesco, sono spariti questi soldi? Sono suoi? Aziende private, le banche. 70 milioni vaporizzati. No, però i suoi. Ma mica per colpa del PD, però. Ma non c'entra nulla il PD, però, no, nel governo. Non c'entra nulla il PD. No, scusa, però. Parezzo, il PD che ha fatto. Il governo PD che ha fatto il decreto. Ha fatto un decreto per provare a salvare la dettatura della BCE e di Banca d'Italia. Ma per questo. Vuole anticipare la razionalizzazione del sistema. Vabbè, ma quella è un'altra cosa. Ma stare per provare a salvare il maggior numero di correntisti, cioè ridurre salvati. Il danno. Vabbè, questo è un altro tema. Ma questo. Scusa, però, Davide, se no non ci capiamo. È normale che la gente se si sente truffata, ma certo, e allora se la prende con chi ha fatto vuole. Il decreto se la dovrebbero prendere, ma anche con i proprietari delle banche, con quelli che hanno portato i gestori delle banche e i gestori della banca, che è un privato. Va bene, Francesco, grazie. Matteo da Vicenza, vai. Ciao. Matteo, dimmi. Niente, io volevo dire che mi hanno un po' stancato sti fanatici religiosi e sentire tipo le storie che dicevi prima di questo qua pedofilo. Ma quella è una storia incredibile, ragazzi. Quella è una storia veramente incredibile. Fa schifo. Cioè, fa schifo, allora, adesso per me va bene tutto, però di fronte a un prete, dichiaratamente non ci sono solo dei sospetti, ci sono delle sentenze. Tu non puoi prendere carta e penna e dire quello deve restare in parrocchia. Quello già in parrocchia non ci doveva stare. No, poi cioè, non già c'entra non niente la politica. Ma no, ma non c'entra nulla. Quello è un esponente della Lega Nord, però no, poteva essere. Appunto, così, se, ma dopo proveremo anche partito. A chiamarlo, non è quello il fatto che sia della Lega Nord me lo rende ancora più così, vabbè, no? Adesso che c'è, però va solo perché si è messo a difendere gli interessi di chi? dei cosiddetti ci saranno un gruppo di parrocchiani che se ne fottono del fatto che gravissimo che quel prete è pedofilo. Quello si sarà comportato bene negli ultimi anni, a parte che sembra di no, perché negli ultimi anni potrebbe avere fatto anche qualcos'altro, pensano i giudici. E in ogni caso quello è un prete che già non doveva stare in quella parrocchia, già non doveva essere stato cacciato via all'inizio degli anni 90 quando è stato trovato colpevole di pedofilia. Ma di che parliamo? Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora ragazzi, vogliamo riascoltare quello che ha detto ieri brevemente, brevemente il mitologico Don Paolo Farinelli, perché molte persone, Parenzo, mi hanno scritto oggi dicendo: ma questo qua non può continuare a fare il prete in questo modo. Sì, dai, cioè uno come Don Paolo Farinelli non può continuare a indossare la tonaca, è strano, a dire messa. Quando poi innanzitutto parla praticamente come noi, non me ne frega un cazzo, no? Usa la parola cazzo in maniera molto, molto frequente. Sì, è un no? prete, beh, appunto. Però sì, quello non mi scandalizza, come è evidente, no? Però c'è questa frase sulla Gelmini che è molto dura, perché uno può anche odiare la Gelmini politicamente, che lo dica un prete, un altro discorso. Sgradevole. Ha detto una cosa molto pesante il signor Farinella. No, Don Farinella, il signore, ecco, fosse già il signore uno. Beh, però vabbè, sì, certo. Don Farinello. La Gelmini che canta Tu scendi dalle stelle ti fa schifo, cioè. Ma certo, figurati quella che sembra andata con Berlusconi, con il gran porco di Berlusconi, poi mi va a cantare Tu scendi dalle. Ma poi ha rovinato la scuola, capisci? Cioè, ma che significa andata sempre con Berlusconi? Vabbè, significa che senza Berlusconi lei sarebbe stata la nullità assoluta, che si faccia infibulare, insomma, non che vada a cantare Tu scendi dalle stelle. Gli è partito il freno a mano. Ci sono anche delle polemiche su questo. Devo dire che noi sul momento, io ho lasciato parlare Don Farinella perché facciamo spesso così. Però oggettivamente, Don Pa, dai su, io sono amico tuo, ti conosco, eccetera. Dai, uno può anche fare delle critiche politiche molto forti. Mi fa schifo il gran porco di Berlusconi. Ci può stare tutto. Però che vuol dire la frase "non si faccia infibulare"? Fa schifo, dai. Ma poi detta da un prete, capito? Non è un ascoltatore che interviene, fa schifo. Fa abbastanza schifo, devo dire la verità. Sì, fa schifo, dai, fa schifo. Mario, provincia di Bergamo. Vai, vai, Mario. Pronto? Dimmi, Mario. Pronto? Dimmi. Parla? Ma chi è che parla? Chi? Sono Mario. Ho capito, io sono Giuseppe, lui è David. Buonasera. Sentiamo, ecco. Ecco, adesso ho sentito la trasmissione che parlavate dei preti, però io avevo telefonato per le puttane, non per i preti. Beh Mario, ma tu puoi parlare di quello che ti pare, avevo qui, una trasmissione aperta. Avevo telefonato, no, perché adesso quella cosa fa, scusi, perché io so più tanto il bergamasco che l'italiano, perché cosa non so può essere. Conosci più il bergamasco, traduco, però parla più forte, Mario, per adesso parli italiano, per adesso stai parlando italiano, non bergamasco, vai tranquillo. No, perché io sono anziano e ci so di più il bergamasco che l'italiano. Vabbè, comunque, questo l'abbiamo capito, che ci volevi dire? Ecco, no, ci volevo dire quella storia lì delle prostitute che voi parlate sempre in trasmissione, che c'è le puttane, le trasmissioni. Va bene, sì. Pronto? Sì, ti sento, dimmi. Ecco, io ce n'ho una a casa che adesso mi sono anche stufato, ma di questa cosa. Cioè, che cosa qua. Chi hai a una casa? Una prostituta aveva di grazia a casa? La Mercetta, la mia figlia, la Maria. Sono capito. Hai una figlia, prostituta? Esatto, esattamente. Adesso, anche la sua mamma non è che era poi tanto, però vabbè. Invece questa qua la sta mettendo nel coma, la smotto esame. No, però aspetta, questo entriamo nel bergamasco e non capisco. Mario, tu mi stai dicendo, se ho capito bene, che tu hai a casa una figlia tua, sì, giusto? Sì. Una figlia, cioè sì, tua figlia. La Maria la conosci tu, tu mi dici la Maria, si chiama Maria, d'accordo. La Maria figlia, che fa la zoccola, la prostituta, giusto? Sì, adesso la zoccola, poverina, fa la prostituta. Ma la zoccola, io non mica lo dico in senso negativo, vabbè, sempre zoccola. Beh, ho capito, ma quello è il termine esatto. Ma il problema è questo, perché io sono un tipo liberale, io sono un alpino, però, non è che... Però un alpino pure. Però anche un alpino, comunque per carità, ognuno ha... Però mi pare che anche la madre facesse, cioè una cosa che anche, si tramanda... Anche sua moglie? No. Beh, la mia moglie, la Teresa, non è che faceva la puttana, se no, per sposare la puttana, no? Allora, la Teresa è sempre stata una ragazza un po' spigliata, però è una brava ragazza, questo sicuro. C'è tua moglie, la sua moglie, tua moglie, un po' spigliata. Si chiama Teresa, vabbè. Mia moglie. Teresa, invece tua bella famiglia. Mi pare una bella famigliola, tutto sommato. Tua figlia Maria, no, invece? Una bellissima famiglia. Sì, no, Maria è bravissima, perché è una ragazza che lei adesso, lei a Natale, mi fa un sacco di regali, tutta contenta. Perché lei ci vuole bene, se gli dà il papà, la mamma, i nonni, ci vuole bene. Le prostitute non è che sono così, sono delle persone. E lei non è in imbarazzo, no, mi pare bene, quindi tutto bene. No, ci mancherebbe anche quella. Ma quello che dicevo io è questo, il concetto, no? Qual è il concetto? Siccome siccome la Maria vive con me, con i suoi genitori, con papà e la mamma, no? Non è che noi abbiamo una casa grandissima, noi abbiamo un appartamento con due stanze, il bagno, la cucina, il soggiorno, basta, finito lì. Dopo c'è un terrassino che guardi giù in via Italia e basta, non c'è più niente. Adesso, quella ragazza qua, poverina, lei lavora a casa, non è che lavora per la strada, lavora a casa. Cioè dove lavora? A casa tua, Mario? Bravo, è quello che sto dicendo. No, però aspetta, riordiniamo un attimo, Parenzo, qui c'è bisogno di fare chiarezza. Allora, Maria è figlia di Mario e di Teresa, giusto? Maria è figlia di Maria. Sì, Maria è figlia di Mario e Teresa, corretto? Bravo. Quanti anni ha questa ragazza, Maria? Ce l'ha 28, 29. 28. Bene, da quanto tempo fa la prostituta? Perché fa la prostituta? Non potrebbe cambiare mestiere, adesso io... No, è che prima lei faceva la pettinatrice, no? La pettinatrice, sì. La parrucchiera praticamente. E poi? Ecco, e dopo probabilmente si vede che quelle signore lì, infatti è tutta una squadra di puttane, perché lì ho conosciuto quelle signore lì dalla parrucchiera e si sono messe in testa che loro devono fare la puttana che guadagnano di più. Io ci ho detto, ma vedi che te guadagnerei anche di più. No, porca bestia, fare la parrucchiera è un bel mestiere, porti a casa dei bei soldini, le raccontate? No, non è giusto. E dunque, no, ma se è contento lei che sua figlia faccia la prostituta. Non è contento, infatti. No, non mi so, pare contento. Non lo vive come un dramma. Tu sei contento, pare, Mario, che tua figlia fa la prostituta? No, io ero più contento se faceva la parrucchiera, di ecco. La verità. E adesso, però, guadagna di più. Certo, guadagna di più. Difatti, lei mi ha regalato una bella. No, adesso che io vado in giro con gli alpini, poi sono contento. Però non è che, ma non è questo il problema, non è che guadagno di più, questo a me non mi interessa, solo a fare però, il problema è che questi arrivano su gli uomini in casa mia, a me mi gira l'occhia, perché ti girano i coglioni, giustamente. Forza, scusi, a lei se ci arriva su un marocchino che si siede lì sul suo divano, a lei ci piace? Mi pare una situazione un po' paradossale. Mi pare però tutto un po', se mi posso dire, io non mi soffermerei solo sulla presenza del marocchino, caro amico Bergamasco. Ci saranno anche italiani, immagino. Ma in generale sulla scena. Ma non solo i marocchini, arriva solo Kiteru, ma porca bestia. Ma non è quello il punto, ma anche secondo me non è quello, in generale il punto è tutta storia che è terribile. Mario, scusami, siccome questa signorina, la signora Maria, che è sua figlia peraltro, 28 anni, ha fatto anche del denaro, perché non va a esercitare questa professione, che è una professione perché non cambia professione? Vabbè, ma quello vale, tu sei un bigotto, lascia perdere. No, bigotto, insomma. Mario, perché non vai a esercitare questa professione, che ne so, in un appartamento accanto, in un appartamento vicino, perché vuole essere... Esatto. Bravo, ma non è che glielo posso dire. È sua figlia, però. Però scusi, Mario, facciamo una cosa. Io le propongo questa cosa. Ti propongo, diamoci del tu, così siamo fratelli praticamente. Grazie, a me del tu. No, ti do del tu. Dammi anche... Grazie. Prego, grazie, per carità. Però scusami, Mario, facciamo una cosa. Passamela al telefono una di queste sere. Va bene, ce la faccio. Io ci dico, come ti chiami te, che non mi ricordo? Giuseppe, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, è il suo amico lì. David. Cioè, ci parlo, dico, guarda, io non ho nulla contro il fatto che tu fai la prostituta, cara Maria. Però tuo padre li gira i coglioni. Il fatto che c'è un sacco di traffico dentro casa. Scusa, ma poi quando avviene questa, come dire, questo meretricio, questa vendita del corpo? Quando avviene questo traffico? A pomeriggio, non so. diciamo, dalle dopo mandato, no? Cioè dalle quegli orari di condominio, dalle 4 alle 10 e basta, dalle 4 alle 10. Dalle 4 alle 10. Volta, e quanti clienti vengono al giorno? Ah, porta 7-8 ria, 7-8? 7-8. 7-8, ma molte anche 10, Ma scusami però, caro Mario, ma e tutti questi suonano al campanello di casa? Bravo, è quello che sto dicendo, che suona il campanello. Mettiamo che io sono lì, ascolto la radio, o leggo il giornale, o se no faccio... Ascolta la zanzara, è interessante, sì, ascolta la zanzara. Mi suona il campanello, io devo andare là a guardare giù, dico chi è, perché magari penso che è un doppio, magari penso che è la posta, e invece no, magari c'è uno che però, mi dice, no, scusi, ho sbagliato il numero. Adesso molti mi stanno scrivendo, no, ma non è una storia vera, eccetera. Io invece ci credo, perché Mario lo sento... Storia vera, vorrei vederci io quel signore lì, se ci avesse lui la figlia a casa, se non è una storia vera. E dopo cosa mi dico? Ma adesso dove sei, Mario? Dove sei adesso? Dove sei adesso? Sono in macchina, sto tornando a casa. Ecco, appunto, quando sei a casa, richiamo, ti richiamiamo noi. Mi passi tua figlia in un attimo, in una pausa tra un cliente e l'altro. Ma la che mia anche, c'è domani, perché oggi è andata fuori con delle amiche, non c'era. Oggi è andata? Dove è andata? È andata fuori con delle amiche, non c'era, non so dove Vai che fa? La prostituta un giorno sì e l'altro no? No, oggi, perché doveva fare degli esami, delle cose del genere, non so, mia, robe sue. E comunque che dopo mezz'ora è andata fuori, non c'è. Vabbè. Domani io ci faccio telefonare se vuole. No, ma domani senza. Ma non ho capito, ma lei dispiace però che lei fa sto lavoro, è un po' come anche nel paese lì, insomma, non è proprio bello sapere che la figlia. No, ma lei è contenta che no, ma qua il condominio è bravo, perché non ci dice niente nessuno, tutta gente che... molto gentile, Condominio non dicono niente nessuno, però lei un po' si vergogna o no? Mario, ti vergogna o no? Sì, io? Cos'è? Di cosa? Di che tua figlia fa la prostituta. Insomma, è una roba normale, proprio. No, non è quello che io mi vergogno, non c'è mica vergogna. A me mi dà fastidio che se devo sedermi sul divano c'è lì uno che sta aspettando, capito? A me è questo che mi dà fastidio. Beh, devo dire, però, solo questo. Solo questo, vabbè, ma ognuno si. Per carità. Per carità. Mario, vabbè, noi diamoci appuntamento nei prossimi giorni. Io ti sono vicino per questo. Volevo dire, scusa. Dimmi che volevi dire. Volevo dirci un'altra cosa. Questa qua è una mia cosa personale, familiare, che ci ho raccontato, perché voi parlate sempre di prostituzione e io ci ho portato il mio esempio, diciamo, familiare. Qualcuno continua a scrivere: telefonata palesemente falsa, ma vi assicuro che non è così, è tutto vero. Mario è una persona vera che racconta questa storia vera. Certo, se ci passasse sua figlia. Ma scusa, quando vi dico telefonata sicuramente falsa. Ma a me cosa me ne frega, se non c'è una figlia che fa la puttana non mi interessa mai di dircelo a lei. No, ma uno potrebbe dire, si inventa una storia e la racconta. Però guarda, se è falsa ti venga a prendere lì a Seriate. Dove sei? Qual è il paese? Vieni Italia, Seriate. Ecco, vengo lì a Seriate e ti prendo la moglie. È curiosa anche la moglie, la Teresa. Ecco, appunto, la moglie che fa? Che atteggiamento ha? Ha detto che è un po' allegra, però anche questo è curioso. Ti dicevo, la Teresa è una ragazza. Io ma tua moglie che in tutto questo, tua moglie che dice? No, ma lei è contenta perché lei ci vuole bene a sua figlia. Tutti lei. Contenti, va bene, ragazzi. Uno fa la prossima volta. Sono tutti contenti. Va bene. Guarda, è strano, uno che sono tutti contenti. Già questo, non voglio fare il bacchettone, però per carità, tutti contenti voi. Ascolta, lui te, è solo scontento del fatto che si mettono a sedere no, su di ma là. È scontento del fatto. Poi in più, la signorina, la figlia adorata, si prostituisce, lavora in casa. E in questo casa, è il secondo sì, punto. Casa. Particolare. No, è questo il punto. Cioè, la mamma Teresa cucina la cassola e la figlia della stanza vicino. No, capisci che no, è tutto un po'. La cassola. Ma quanto è grande questa la cassola per dire la cassola? Questa casa quanto è grande questa casa? Poco, ha detto. Sarà 80 metri, ce l'ho detto. Hai due stanze, il bagno. Due la stanze. Cucina, e questi si vanno pure a pulire in bagno i clienti? Per forza, magari fa cos'è poi. Speriamo non la facciano in cucina, no? Più che altro di pulirsi. Però, se uno ci scappa la pipì deve andare al bagno, no? Per forza. Ho capito, ma lei capisce, amico mio, che è tutto abbastanza curioso questa roba, no? Ci sentiamo domani, Mario. Ciao, aggiorniamoci. Mario, Teresa e Maria. Dimmi che me volevi dire, Mario. Che me volevi dire? Volevo dirci anche un'altra cosa che a me mi premeva di dire alla radio. Dimmi, no? Oltre a questo, che c'è di più? Oltre a questo, che si può dire di più? Ma è una mia cosa personale. Personale, la divisa 2 milioni di persone, generale, no? Che questa qua è di tutti. Lì sotto sarà a 200 metri. C'è i zingari. Lei sa chi è i zingari? No, i guardi, zingari, il problema non sono gli zingari. Sì, guardi. Allora, se lo lasci dire, in questo caso il problema non sono però gli zingari. Però fammi sentire sta cosa sui zingari. No, adesso far passare per il problema gli zingari. Ma che ne sai? Non ha detto nulla, dai, Mario. Ho capito, ma

chiaro? Benissimo. È un prete pedofilo, accusato e condannato. Guardi, sono Giuseppe Cruciani, la Zanzara Radio 24, non si preoccupi, lei può registrare. Giuseppe Cruciani, la Zanzara Radio 24. Cruciani. Qual è il problema, scusi? Io la saluto. Che problema la c'è? Saluto. Che problema c'è? No? Che problema c'è? Non ho capito. Che problema c'è? Qual è il problema? Qual è il problema? Conto che questi qua non hanno nemmeno il coraggio di quello che fanno. Ma cioè, questo è stato la telefonata. Ma che insomma, che cazzo me ne frega, registrata la telefonata? Cioè, può registrare quello che vuole, signor Villa. No, ma non lo so, perché secondo lui, se, siccome gli ho detto vergognati, magari mi vuole querelare. Prego, si accomodi, c'è una lunga fila, signor Villa, hanno perso deve, tutti. Però deve il punto... prendere il numero. Oggi sì, serviamo deve... il numero 44, esatto. Guardi, come del Salumaio. La cosa che mi fa impazzire è che questi qua scrivono delle cose in appoggio a questo prete, perché trattasi di appoggio. No, non appoggio per il passato. Vogliono che resti in parola. E non sono nemmeno, capito? Non hanno nemmeno le palle per difendere il loro, quello che fanno. Perché dopo si pentono e pensano di aver scritto una cazzata e non sanno quello che dire, capito? È una cosa incredibile. Sì, sì. Questi sono dalla sostanzialmente si mettono dalla parte di uno che è pedofilo. Vogliono che resti in parrocchia a contatto con i bambini. Ma vi rendete conto? Vergognoso, o no? Vergognoso. Ma ragazzi, ma tempestate di telefonate questo cazzo di parrocchia di Albenga, là San Borghetto, Borghetto Santo Spirito, per cacciare questo, su! Questo è un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. La Zanzara. La Zanzara, patrimonio mondiale dell'umanità. E anche la figa. Ah Giuseppe, altro che lapsus, hai detto che ti piacciono l'omini. E va bene, non fa niente, oggi è normale, fai coming out, no? Giuseppe, provincia di Ancona, vai! Io ho ancora in testa la reazione di questo signore. Ciao Giuseppe. No, ma è incredibile. Ero incavolato con te all'inizio dell'apertura della trasmissione, ma dopo questi due signori, gli ultimi, questi episodi ultimi, mi è passato tutto, Giuseppe. Ma perché eri incazzato? Non ho capito, Giuseppe. Ero incazzato perché a me non mi interessa, penso, come al 90% degli italiani, del vestito della Santanchè. Agli italiani gli interessa che qui nelle Marche i ladri fanno razzia, perché i poliziotti, i carabinieri, i poracci stanno tutti a scortare questa bella gente. No, ma tu hai ragione su una cosa, l'enfasi intorno alle misure di sicurezza alla Scala, io la trovo veramente vergognosa. L'enfasi, no, ma sai... il fatto che, no, ma a parte che lei... Ma si... se li pagasse da soli le scorte, no? Da soli se li deve pagare. No, io trovo ridicolo che ci siano intere zone del territorio italiano oggettivamente sprovviste di poliziotti, carabinieri, forze dell'ordine in generale, che poi ci siano 2000... 200 persone a Roma per il Giubileo. Lo trovo una cosa assurda. Esatto. La trovo una cosa assurda. Come trovo la blindatura totale. Ma assurdo, ma... È assurdo perché. Ma non lo decidiamo lo noi. Ma vabbè, mi pare... certo che non lo decidiamo noi. A parte che mi pare sia andato tutto veramente benissimo, sì, in modo straordinario. Tu sai la cosa incredibile, no? Che dicono che a Roma in questi giorni i reati siano diminuiti di oltre il 30%. Sai che stavo per dire la stessa cosa. Allora, io sono diminuito il 30%. Allora io dico, ma sì, perché non trasformiamo? Oggi c'era il tempo che faceva questo ragionamento. Noi vogliamo. Noi, voi che abitate a Roma, dico noi in generale, vorremmo che fosse sempre così, cioè che non fosse un'eccezione. Beh, per il Giubileo, è abbastanza una banalità quella che sto per dire, ma è evidente che se tu hai uno spiegamento di forze come quello che c'è in questi giorni, per cui in metropolitana vedi i militari col fucile, i militari, chiaramente è molto rassicurante anche per uno che torna la notte in metropolitana. Dovrebbe essere alle 11. Sempre così, dovrebbe essere però sempre questo così. Ha un prezzo questa roba, cioè questo chi stato di cosiddetta chi polizia. Se ne frega, si spenda più per queste cose qui, ma si spenda più per queste cose qui. Non si lamentano lamentano, anzi sono molto contenti. No, ma io non mi pare che sono molto contenti. Ma non sto dicendo che si stanno lamentando di questi poliziotti. Giuseppe, in giro sta per dicendo Roma. Un'altra cosa, prendendo spunto dalla questione del vestito della Santa Anche di cui non gliene fotte nulla, giusto Giuseppe? Le ronde per vigilare la notte, che bocca dentro, no, non c'è protegge più nessuno. Allora, la cosa che dice Giuseppe è molto semplice. Dice, a me rode il culo che ci siano migliaia di militari dispiegati per proteggere la scala, il giubileo, eccetera, e non ci sia nella normalità un presidio del territorio così forte come viene fatto adesso. Sinceramente non no, gli può... adesso, Giuseppe, adesso fa e cantano, perché la polizia, i carabinieri, i poveracci, che deve fare? Ma che c'entra la polizia e i carabinieri? Deve fare, quelli non c'è, serve a scortarsi i maiali, no? Perché io li chiamo maiali, tanta gente quelli che scorta. Ma cosa c'entra? Vabbè, li chiama maiali perché c'ha coi politici in generale. È sbagliato, però che te devo fare? Il nome è venuto un politico a Iesi l'anno scorso. A Iesi, sì. Se c'era 50 persone, 40 erano poliziotti, carabinieri, finanzieri. Vabbè, Giuseppe, ti saluto. Ciao, Paolo Cremona, vai, Paolo. Ciao a tutti. Dimmi. Niente, io volevo fare i complimenti a Parenzo su quello che pensa dell'altro cassonetto. Sì. Ah, perché bene. Appena grazie. Una mente, dico contorta, può arrivare a certe definizioni. Sì. Io voglio fare un esempio. Stanotte vanno a casa sua, gli forzano la basculante del garage. Sì. Forzata, per forza di cose, cede e ammazza il ladro. Sì. E questo si ritrova la denuncia dei familiari. Possibile, possibile. Ho detto semplicemente che è normale che l'avvocato della difesa, cioè l'avvocato della famiglia, provi, ragioni peggio però, di quello ho che detto vuole che è normale, ma non è normale, purtroppo non è normale che un avvocato della difesa esperisca ogni cosa pur di ricavare un guadagno. Non è normale che un avvocato la difesa prova in qualunque modo. Io lo metto nel cassonetto e lo lascio lì. No, ma non ho capito, scusi. Non ho capito cosa state discutendo. Cioè, non è normale che allora l'avvocato della difesa provi in tutti i modi a avere un guadagno da una situazione malefica. Purtroppo la legge glielo consente. Purtroppo la legge non lo consente. Intanto la legge non consente proprio nulla, perché questi qui stanno soltanto denunciare. No, che tu possa denunciare, puoi denunciare questo chiunque. Lo fanno perché in Italia è possibile fare non queste è detto cose qui. Che vincano ovviamente la causa. No, vincano qui, questi qua vanno avanti per anni, costi. E dunque costi, un'azienda può dire ti do 10.000 euro, non rompere i coglioni, perché l'obiettivo è quello là. L'obiettivo è quello, certo, però non è normale. Cioè, non è normale che la legge consente che tu fai una denuncia che tu possa arrivare in tribunale quando un tuo cliente è detto che uno arrivi in tribunale, anzi. Vabbè, magari... no, perché tu subito sei partito, era difettoso, un cassonetto manomesso. Ho detto che quindi... è evidente che la difesa giocherà sul fatto che quel cassonetto era difettoso. Tu hai detto magari era difettoso, ma che quello stava scavando dentro. Tu sei subito partito in quinta, era io non ho fatto nessuna perizia, mica sono l'avvocato della difesa, che me ne frega. Se quello è un ladro intanto. No, primo, però per te è normale, per te è normale che questo faccia causa all'azienda che ha prodotto il cassonetto, David? Per me è normale che l'avvocato della difesa faccia. Ma non è normale, evidente. Uno si deve solo incazzare qualunque e dire che questo qua è una cialtronaggine totale. L'avvocato. L'avvocato che vuole ottenere dei soldi per il fatto che un cassonetto è caduto in testa a un ladro che stava rubando dentro il cassonetto, cioè è uno così, va bene. Cassonetto manomesso, quindi una cosa manomessa che normalmente funziona, essendo stata manomessa, può diventare e se è così, infatti non la vedrà pure che l'azienda non tirerà fuori un euro, no? Poveraccio tra virgolette, questo qua sicuramente dovrà sborsare dei soldi per un coglione. Speriamo di no. Non è detto assolutamente. Il proprietario dell'azienda, le cose vanno sempre bene. Il proprietario dell'azienda, non a caso, ha detto: i miei vorrebbero, capito? L'assicurazione vorrebbe fare una transazione, capito? Perché questo si arriva al paradosso che la legge italiana probabilmente potrebbe, per qualche cavillo, per qualche cosa, dare ragione al ladro. E questa è la cosa incredibile. Cioè, la legge italiana, nella sua astrusità, spesso, e nella sua, come dire, nei mille rivoli dove si può arrivare, potrebbe alla fine dare ragione a questo. Perché uno potrebbe dire: sì, è vero che quello stava rubando. Però il cassonetto, giusto Paolo, se il cassonetto fosse stato costruito in qualche modo, eccetera, una parte di responsabilità ce l'ha pure il costruttore del cassonetto, perché altrimenti questo non sarebbe morto. Si può arrivare anche a questo. questo in Italia. Guarda, ti assicuro, David, tu può essere. Non è normale. Speriamo di no, può essere. Dai, su, Alessio, provincia di Massa. Ciao Paolo, Alessio. Pronto, buonasera. Dimmi. Niente, volevo intervenire subito, volevo essere velocissimo. Volevo intervenire sul discorso del padre che sta... Ragazzi, ma chiamate su questa storia qua del prete e di chi appoggia il prete pedofilo, perché veramente fa incazzare, eh? Adesso tu che vuoi dire, Alessio? A parte che questo tizio veramente, potete registrare anche a me, è un grandissimo pezzo di merda. Perché si sì, registra, si come ti chiami, amico mio? Registra pure questo. Alessio da Massa. C'è un grandissimo pezzo di merda, perché non si può difendere uno che predica la bontà di Dio e poi va a fare... Vabbè, lasciamo perdere. Niente, volevo parlare di quel signore che c'ha la figlia, diciamo... Sì, la figlia prostituta, quello di Bergamo, sì. Tu ci credi alla storia? Io direi che si deve preoccupare di più della figlia, piuttosto che dei terroni che vanno a casa sua. I terroni. Vabbè, adesso i terroni, ma quello è della provincia di Bergamo, un po' così... Ho capito, ma si deve preoccupare comunque della figlia. Non si deve preoccupare dei terroni che ci hanno. Sì, questo pure è vero, non ha tutti i torti. Effettivamente si preoccupava di più di quelli che gli vanno. Questa è la cosa si siedono strana, sul divano piuttosto che della figlia. Dottor Parenzo, io non vorrei. Dottore, mi pare un po' troppo, però vabbè. Anche non sono medico, ma non importa. Posso fare anche il medico. E non è manco laureato. Però, appunto, per quello dicevo, non sono medico. Ma le voglio dire questo, caro. Lei ha centrato esattamente il punto. Cioè, quello si preoccupava del magrebino marocchino che staziona nel suo salottino di casa. Veramente. Quando stava per dire degli zingari, che sa, quando invece mi pare che la trave è nell'occhio suo, cioè la situazione che lui vive non è proprio così normale come la problema di schermo. Poi, per carità, io sul fatto ormai che abbia la figlia prostituta, il fatto che abbia la figlia prostituta, io sì, non ho nessun, non ho niente, è un mestiere come tutti gli altri. Il discorso è che si preoccupa, vabbè, il mestiere più antico del mondo, sicuramente è molto redditizio. Ho capito, ma io penso che nessuno... Se fossi stata una donna... Ma io penso che nessuno voglia avere una figlia che fa quel mestiere lì, ma adesso non penso di dire una cosa così strana però, eh? No. Se faccio un sondaggio in giro, non sono né Mannheimer né Pagnoncelli, sì, penso che il 99% delle famiglie italiane... Vabbè ragazzi, però se uno ha una figlia prostituta a casa e accetta adesso, questa cosa qua... Non fatelo passare per normale. Ma nessuno dice che è normale. Perché io voglio trovarne uno che mi dice che va bene così. Sono casi estremi di cui è fatta, di cui è piena l'Italia, però, perché magari la figlia faceva, come ha detto, la parrucchiera, non so che cosa, la pettinatrice, ha detto, guadagnava poco, ha scoperto, allora, perché magari non dico che è normale, ha scoperto di guadagnare di più, ma sai quante persone ci sono che dicono che guadagnano di più facendo la prostituta? Sì, però magari lo nascondono i genitori, no, più che altro magari non lo fanno a casa, questo. Ecco, c'è anche questa seconda stranezza, sì, se sì, mi puoi c'è anche permettere. Questa seconda stranezza. Di questo signore che si trova delle persone, quella cucina, non la cassola, se arrabbia gli spaghetti alla carbonara e quella tromba nella stanza. 80 metri quadri, capisci che va nel bagno dove vanno i papà e la mamma, cioè, a pulirsi, il signor marocchino o italiano vuoi. Ma lascia stare che è marocchino, adesso fissato, no, l'ha detto e quello è bergamasco alpino, si è fissato sul marocchino. Io francamente non lo so, poi vabbè, la gente. Arrivederci Alessio, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. È un programma, guardi, radiofonico, come si chiama? La zanzara, quello da chiudere subito, guardi, da chiudere. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora andiamo ad Asti da Gian, poi Roberto Macerata, poi andiamo ancora a Fabrizio da Roma e altri ancora. Vai su, Gian, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Vi avevo già chiamato tempo fa riguardo alla castrazione chimica per chi faceva violenza. Vabbè, io proponevo la castrazione fisica per chi faceva violenza. Volevo estendere. Cioè, che vuol dire castrazione fisica? Spiegami. L'altra volta si proponeva la castrazione chimica. È attraverso dei medicinali, delle esatto, siringate, eccetera. Tu invece? Essendo vittima io di violenza sessuale quando ero ragazzino. Cioè, che t'hanno fatto? Scusami, non per. No, l'ho già detto l'altra volta, quindi non ma è. Non me lo ricordo adesso. No, nel senso che non è un problema ripeterlo. Niente, un mio conoscente mi ha violentato quando ero un ragazzino, 10-11 anni. Sì. e è rimasto impunito anche tra virgolette per colpa mia, perché non ho messo denuncia, niente, ho avuto il coraggio di dirlo solo quando poi ma quanto tempo dopo hai parlato con, che ne so, con tuo padre, con almeno, tua madre? Almeno 10 anni dopo, almeno dieci anni dopo. E quindi niente, la mia proposta l'altra volta era castrazione fisica, cioè tagliare il pisello in pratica. Esatto, ma con contorno di terrore proponevo di chiudere questi bei personaggi in stanze buie dove non potevano vedere cosa gli veniva fatto e farli divertire come si sono divertiti loro con noi, segnandoci per tutta la vita. Volevo estendere una specie questa... di tortura, insomma, cioè no, tu, proponi, se tu proponi la violenza, violenza su di questi. Toglierei la specie, parlerei proprio di tortura, perché ti assicuro che noi, almeno io e credo quasi tutti gli altri... Cioè tu che cosa faresti, esattamente cosa faresti a questi signori qua? A parte ammazzarli, perché immagino... No, ammazzarli no, perché gli, in un attimo solo gli toglieresti... Tutta la sofferenza. Quello, esatto. E invece cosa... soffrire a lungo. Niente, chiusi in una stanza al buio dove loro non possono vedere cosa e chi gli fa qualcosa e... divertirti come si sono divertiti loro, nel senso castrazione fisica, che ne so, bruciature, torture, non mi vengono in mente, adesso non sono un grande esperto di torture, però torture, chi le dovrebbe fare queste torture? Mamma mia, è impazzito. Ma secondo me... Secondo Parenzo sei impazzito, No, eh? Capisco quello che ha subito e quindi è legittimato a dire qualunque cosa, ovviamente, avendo subito delle cose, però torture, ragazzi, comunque non so di cosa stia parlando. No, cioè, Parenzo sei impazzito, stai dicendo delle follie. Ma se uno dice, ma anche per te credo, uno che dice torturare, credo di sì, no? Che dici tu? Non lo so. Io dico questo, Parenzo, che ha detto giustamente, non avendo lui subito, non può. Noi subiamo tutti i giorni una tortura continua, perché... Quando ti capita una sì, però tu puoi capire bene, Gian, che uno propone la pena di morte e ci sta per un pedofilo, a meno che uno non sia contrario di principio alla pena di morte, però no, però proporre per la castrazione chimica, proporre la tortura è una stupidaggine. Come cosa istituzionale, cioè lo Stato dovrebbe a meno che tu non dica vabbè, è meglio che ce lo consegnino a noi, è meglio che lo consegnino a qualcuno, che ne so, a chi, perché lo Stato non può ammettere che ci siano un gruppo di torturatori. Poi tra l'altro la tortura avviene poi in pratica dentro le carceri, è come sappiamo. Illegale. Gian, allora? No, io non lo proponevo a livello di Stato perché capisco. Allora chi è che deve torturare? Scusa, tu proponi la tortura per i pedofili, ma chi li tortura? Io per esempio adesso ho due figli che hanno più o meno l'età di che avevo io quando ho subito la tortura. Sì, la violenza. Capitare, sì, la violenza. La violenza. Dovesse capitare a loro, mi piacerebbe tanto lo consegnassero a me. Sì, no, perché è una specie di vendetta privata, non so come dirti, di vendetta da parte del privato. Sì, diciamo che tutto questo può avvenire nel concreto, uno può prendere anche una mazza ferrata, una pistola e andare a trovare il pedofilo e ammazzarlo. Vabbè, poi passa i suoi guai, eccetera. Però non si può proporre come soluzione, non so come dire, cioè, non è una soluzione che si può proporre. Io sono per il carcere a vita, per la castrazione chimica, eccetera, eccetera. Però questo è carcere però a vita, carcere, non come questo cazzo di prete che poi è libero, capito? Perché ti è venuta in mente questa tua storia, Gian? Scusami. No, perché sentendo appunto questo che propone di non mandare via il prete, e oltretutto, per assurdo, coincidenza della vita, Borghetto Santo Spirito è il posto dove io e i miei figli andiamo in vacanza tutti gli anni. Pure. Questo probabilmente è combinazione, una volta sola, perché in causa maltempo siamo andati a Messa, per cui credo anche di aver visto questo simpatico personaggio. Sì, è un'altra cosa che... Don Zappella, Don Zappella. Sì. Esatto, e io mi piacerebbe confrontarmi con altri che hanno subito violenza, ti viene una specie di sesto senso e li annusi, quelli che poi hanno fatto. No, ma al di là del sesto senso, io trovo assurdo che ci siano delle persone che si mobilitano per far rimanere questo qua, è stato di nuovo accusato di alcune violenze, certo. Lo stanno per cacciare dopo che incredibilmente è ancora in carica come parroco, ancora indossa una tonaca. Questo è pazzesco, dai, questo è incredibile. E ci sono delle persone che scrivono no, lasciatecelo lì, ma dico, ma siete impazziti completamente. È uno della Lega, se non ricordo male, un consigliere comunale. Consigliere della Lega, sì. Una cosa contro tendenza. Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Allora, intanto Luca da Roma, vai Luca. Allora, senti, telefonavo a proposito della vicenda abbastanza sconcertante di questo signore che difende questo prete pedofile. E devo dire che il mio primo istinto, io sono papà di un bambino di 5 anni, il mio primo istinto è questo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, resta lì, Luca, resta lì. Pronto? Sì, Don Zappella? Sì. È lei? Dica. È lei Don Zappella? No. Sto cercando Don Zappella. Chi parla? Qui Cruciani, buonasera. Chi? Cruciani. Niente, cosa devo dire quando lo vedo? Se lo vedo. Chi Cruciani? Non è più parroco. Ah, lo so che non è più parroco, ma c'è gente che vuole farlo rimanere lì. Questo volevo chiedere. Questo non lo so. Ma lei vuole che rimanga? Non ho capito. Lei chi è innanzitutto? No, io sono un collaboratore, ma non so che non da ieri non è più parroco. Lo so, ho capito, ma c'è gente che ha chiesto al vescovo, come lei sa, che invece Don Zappella rimanga lì. Ah, ho visto sulle locandine, sì, questo l'ho visto. A lei manca Don Zappella? Certo. Cioè, è stato un errore mandarlo via? Non lo so, cioè, non sono semplicemente un collaboratore, io non posso... No, lo so, lei è un collaboratore, però Don Zappella è uno che è stato condannato per atti gravi nei confronti di minorenni, è stato anche altre cose in corso, queste sono cose gravi, o no? Guardi, mi spiace, ma non... Ma lei non sa niente, dovrebbe sapere. C'è stata una condanna all'inizio degli anni 90 e altre cose ancora, o no? Pronto? Questo hanno abbassato, guarda, è incredibile, non so niente. Pazzesco. Ma come non sai niente? Che non sai niente? Una roba pazzesca. Poi tra l'altro all'inizio ha detto Don Zappella, sì. Sembrava lui, dai. No, non era lui, no, non era lui. No. No, non era lui, è più anziano. In teoria è più anziano, dai. Ma tu dici che ci ha turrubinato così, ci ha preso certo. Per il culo così. No, non era lui, dai. Mi dispiacerebbe assai se fosse stato lui, eh. Vabbè, Luca, dimmi che stavi dicendo, capito? Questo qua non dicono un cazzo. Stavo dicendo allora, una cosa semplice. Sono dei codardi, maledetti, capito? Dei codardi, maledetti. Maledetti, dai, maledetti. Come deve essere un pedofilo se non maledetto? Maledetto, sicuramente. Dai, su, io esagererò, però è così, dai. Ma sicuro, quello... Ti fanno incazzare queste cose qua. Non la politica, sì, la politica, per carità, scelte sbagliate, i politici, alcuni sono bravi, altri no. Però questo è un altro discorso. Qui si ha violenze nei confronti di bambini sotto i 14 anni, dai, su. È una porcheria. La gente stessa che scrive delle lettere, questi scrivono delle lettere, cioè, capisci? Bisogna vedere chi poi, bisogna vedere chi? alcuni parrocchiani supportati da un consigliere comunale che abbiamo sentito prima, che addirittura chiedeva, ma lei come si chiama? Io registro, registri, che sei in diretta, Luca, dai. Ecco Giuseppe, a proposito di questo, porca puttana, dovresti dare pubblicamente il numero di telefono di questo consigliere comunale, così lo chiamiamo tutti. Ma poi questo lo cambia il numero, tanto non ti preoccupare, potremmo fare anche questa cosa, è un buon suggerimento questo. Perché questo deve essere il gioco, cioè visto che questo signore è così, come dire, non trovo neanche l'aggettivo, però certamente parla meglio, però Luca parla più forte che non sento una mazza. Dico, siccome il suo comportamento è così vergognoso, penso che sia giusto proprio, sì. Eticamente, come dire, un dovere dare il suo numero di telefono in continuazione, se poi non lo cambia tu lo trovi, tanto sì, non è quello il pedofilo, attenzione, cioè non è quello il pedofilo, ma è peggio, guarda, sì, è forse perché, per certi aspetti sì, perché un pedofilo lo si può considerare anche un malato, soprattutto un malato, per questo va castrato, perfetto, esattamente, chimicamente. Questo signore non solo non è un malato, ma è anche uno che teoricamente dovrebbe curare gli interessi. Sì, no, invece dice che per 6 anni ha fatto bene in parrocchia, capito? Ma chi se ne frega che ha fatto bene in parrocchia? Va bene. A parte che pare che non sia vero nemmeno quello, perché ci sono delle indagini in corso su alcune cose fatte. No, ma questo non è che elimina la colpa. Poi questa esatto, non elimina la colpa, e comunque in questo caso quella invece di un consigliere comunale, come dire, che fa. Insomma, che si comporta come si sta comportando, secondo me è doppiamente grave, perché questo signore non è un malato ed è uno che dovrebbe fare gli interessi di sì. Vabbè, ci penso, Luca, ci penso, grazie. Stefania Roma, vai Stefania. Ciao. Ciao, allora, ciao. Meno male che riesco a parlare, perché sennò davo, veramente sfasciavo casa, cioè, una cosa vergognosa di questo tizio. Questo consigliere comunale, a mio avviso, vabbè, pedofilo è pedofilo, vabbè, quello è un disgraziato, quello va messo proprio va alla forca, anzi, bruciato come Giovanna d'Arco, ma come la povera Giovanna d'Arco, ma ancora peggio è questo consigliere comunale. Cioè, io questo consigliere comunale che ha scritto la lettera, anche se dice a nome dei fedeli del cazzo, scusami. Mm-hmm. Cioè, io questo consigliere lo manderei via, cioè gli toglierei, capito, il titolo di consigliere comunale, perché non si può, ma però... cioè, innanzitutto intervenga Salvini, innanzitutto intervenga, ecco. Salvini, questo è uno della Lega Nord. Bravissimo. Ah, perfetto, allora lo possiamo dire che intervenga Salvini e che faccia qualcosa, perché questo è un po' ero deficiente, o se no un pedofilo pure lui, perché c'è poco da dire, perché tra pedofili questo non credo. Adesso questo non credo, dai. Si può dire tutto, a questo, cioè, ma allora, cioè, se la logica è logica, cioè, uno dovrebbe pensare per quale motivo lo intende, tra virgolette, difenderlo, comunque intende questo, francamente, è incomprensibile, perché... anche perché non mi ha dato modo, come se tu hai sentito, Stefano, la telefonata che abbiamo, sì, fatto prima con Villa. Praticamente dopo un po', siccome facevo delle domande assolutamente normali, scusa, come ti viene in mente di appoggiare uno, questo è stato condannato per pedofilia, ma tu manderesti i tuoi bambini da questo signore qui, si è arrabbiato e ha detto, sì, mi dia il suo numero, chi le ha dato il mio numero, ma io faccio il giornalista, non è che faccio il no. Giusto, e lui non ha risposto, difatti lui non ha risposto, perché non aveva proprio modo di rispondere, cioè poveraccio, perché ripeto, perché secondo me è un pedofilo pure lui, ma non lui so, questo non lo possiamo, questo no, questo adesso oggettivamente lo dici tu. Certo, mi dissocio, lo dico da questa cosa. Mi dai il telefono, visto che il telefono tu sai, daccelo pure a noi, che glielo diciamo noi. Questa è una cosa che oggettivamente si può pensare di fare, non lo so, vediamo adesso. Sì, io poi mi presento, gli do pure, se mi vuole querelare, mi querelerà, se non me ne frega niente, perché è vergognoso. Poi vediamo chi c'ha ragione, poi vediamo se lui, quello che come dire, che appare un po' strano, visto che vuole, ma solo perché ha fatto delle cose buone per questa chiesa, ma che cazzo ce ne frega della chiesa? Pazzesco. Ma dei ragazzini! Ma i ragazzini che vengono, ma io, guarda, non ho parole, guarda, mi viene, cioè, c'è stata la telefonata prima di quel poveraccio con la figlia, la moglie lì che se stavano a fare le cose lì. Vabbè, quella ma è un'altra storia. Quello è niente, appunto, rispetto a questo, quello è niente, quello c'ha, cioè, del paradosso, quasi fa ridere, è vero. Però cioè, questo è una cosa vergognosa, cioè Salvini, vabbè, deve fare qualcosa. Grazie Stefano, ciao. Grazie. Spettacolare. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Parenzo ritorna dopo qualche giorno di attesa, sì, la nota rubrica della Zanzara dedicata a Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania Varin. Chiaro che sotto Natale non sono i musulmani a darci fastidio, ma sono i filocomunisti, quelli che non hanno mai digerito il crocefisso e il presepio. Sono loro che trovano le scuse più banali per non applicare più le nostre tradizioni, e tra loro ci sono anche molti preti, cagasotto, monsignori, cardinali, certo. Le tue braccia possenti, a chi ti vuol fermare? Un ascoltatore ricorda a Barin che adesso leccano il culo ai meridionali dopo averli offesi per anni. Senti, ma anche noi siamo alleati adesso con i meridionali, poche palle. Sì, ma dopo averli offesi per anni, quando abbiamo offeso chi non ha voglia di lavorare, forse, certo, lo abbiamo offeso duramente. No, questo, poi adesso ultimamente va a leccare il culo a loro e non li prende i voti da loro di sicuro. Bella e libera, guarda avanti. servi di Roma. A un certo punto interviene un musulmano. Parlato per mezz'ora, non ho capito un cazzo di cosa c'è in testa lui. Cioè, quello lì poteva fare il politico in Italia. No, lui fa il musulmano e applica la tachia, capito? Quindi bisogna nascondersi come nella nebbia, hai capito? Non lo so se applica il tacchino o il pollo, comunque vabbè, ha parlato per mezz'ora, non ho capito un cazzo. Il popolo nella tempesta, come una madre e un figlio. Guarda che gli italiani sono classificati i primi, capito, a fare rapina in banca e sequestro di persone. Invece i musulmani si fanno esplodere direttamente. No, ma dai. Non avete una buona reputazione in giro per il mondo, sai? No, la libertà. Quindi pensi che qui in Italia vincerà ancora Renzi tranquillamente? Vincerà perché è un buon uomo, perché lui non va dietro alle guerre come fate voi. Certo, no, quello è vero, guarda che hai ragione, su quello è vero, Mustafa. Non è pagliaccio come quello lì, il vostro leader. Vabbè, pagliaccio tientelo per te, Mustafa, non ti ho visto, ma probabilmente hai una faccia proprio da pagliaccio. Signor Mustafa, forte questi amici che hanno colto il mio appello. Devi sapere che ho conosciuto una volta un tizio algerino che è venuto qui alla live della Zanzara il 19 di novembre, che mi ha detto: guarda che sono io quello che chiamo Radio Padania, chiamo sempre Radio Padania, un mio amico, che è il mio fruttivendolo, quello che avete vicino a casa mia, egiziano, sì, simpaticissimo, sì. Peraltro, sì. Del genere. Gli ho dato il numero di Radio Padania, della Zanzara, no, di Radio Padania. Gli fai prendere ascolto dice, a Radio Padania. Oggi mi ha detto cosa di porto, dottore bellissimo. Gli ho detto: guarda, non lo so che frutta ottima. Io gli ho detto: come frutta? Quello sarà l'egiziano che ti fa pagare un etto di un chilo di mandarini, te lo fa pagare no, 5 euro. È uno molto onesto, ma simpaticissimo. Ogni donna che entra dentro dice: tu regina bellissima. Sì, poi bisogna vedere come le trattano a casa. Te lo dice. No, ma che comunque proseguiamo. Ascoltatori. No, ma oggi mi ha detto: prendi questo che ha vitamina F. Dico: come vitamina? Perché cazzo è la F? Non esiste la vitamina F. E la F che piace a tutti gli uomini, vitamina F. Scoppiato lì. Hai capito cos'è la vitamina F? Sì, lo so. Diglio a Gruciano che questa banana ha vitamina F dentro. Dico: vitamina F. Io conosco la A, la B, la C. No, la F la so io. Vitamina F, A, F. È simpaticissimo l'egiziano. Servi di Roma fuori. Ascoltatori di Radio Padania. Ecco. Allora io sono incazzata perché io continuo a sentire gente che si lamenta. Vogliamo capirla che la Lega non ha la maggioranza, non ha mai avuto la maggioranza? Siamo i milioni tra Lombardia, Veneto, Liguria, votiamo tutti Lega, magari la mettiamo nel culo a quei sinistroni, diciamo, della merda. Diciamo queste parolaccine qua, quando ci vuole, ci vuole. Mi viene in mente. Così almeno andiamo con la Zanzara, così sono contenta. Sto corso di Sadomaso. Ci spreme. Sfonda il muro di onnipotenza. Io a Tabiano, sono stata a Tabiano quest'estate, da più di un anno in un albergo, l'albergo Maria Luigia, ci sono una quarantina, una cinquantina di questi negri nulla facenti, addirittura una cosa, e poi hanno cercato di fargli fare il giardiniere, ma doveva vedere come cercavano di lavorare, uno sparanzato su una panchina che non faceva niente, gli altri tre che cercavano, che spostavano le foglie da una parte all'altra, l'unico che lavorava era il giardiniere anziano italiano. Senza dubbi né pensamenti. La mia figlia mi canterà delle canzoni alla festicciola, fa di chi? Di Freddie Mercury quest'anno, ecco. Io dico questo, cosa c'entra con il nostro Gesù Bambino e col Natale? Beh, è meravigliosa questa scuola che fa cantare delle canzoni di Freddie Mercury, morto omosessuale, morto di AIDS, è meraviglioso, stupendo. Sarebbe nulla di male, peraltro. Allora, qualcuno mi segnala che incredibilmente, nel marzo del 2014, l'11 marzo del 2014, Don Zappella era a Roma per una colazione da Papa Francesco e ci sono pure le foto. Ah, Don Zappella. No. Da Borghetto al Vaticano all'Uruguay. Giovedì scorso il parroco della chiesa di Sant'Antonio di Padova, Don Francesco Zappella, ha celebrato messa con Papa Francesco nella chiesa romana di Santa Marta, che è la cappella privata del padre, come sappiamo, del Santo Padre. La funzione si è svolta alle 7 di mattina. Prima della messa, Don Francesco e il suo omonimo vescovo di Roma hanno fatto colazione insieme. Capito? Ho avuto il privilegio di conoscere il Papa anni fa in America Latina, eccetera, eccetera. Io ragazzi, ma vado ai matti, cioè il Papa non è informato di chi era questo signore, di che cosa ha fatto questo signore? Va bene, dai, andiamo a Roma, Fabrizio. Buonasera ragazzi, vi do del tu perché riconosco dalla vita, ascolto per radio. Volevo dire, la puntata sembra brutti, sporchi e cattivi, è iniziata con la Santanchè, poi siamo passati purtroppo a quel disgraziato di Bergamo, poi siamo passati ai pedofili. Sì, ma sono passate anche due ore, amico mio. Sì, pure questo è questo. Ma la cosa più grave è che ancora fate parlare la Santanchè. Sì, ma no, è un esponente politico di Forza Italia, un'imprenditrice, una che si è vestita alla Scala in quel modo là, non allo Scalo, è diverso, lo Scalo è la stazione. Noi la chiamiamo, punto e basta, dai. Ti faccio una persona non mediamente intelligente, a tutte e due, superiori alla media. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso, superiori e inferiori. Il punto è che la chiamiamo così per stuzzicarla sul vestito. Lei fa la populista, dice no, io faccio il made in Italy, poi va in giro con quelle borsette francesi. Senza che faccio nome, io ne avrò viste 45 e poi dice facciamo il made in Italy a 500 euro. Queste cose ti dico, quando ho iniziato la puntata mi ha fatto incazzare quella cosa, poi ho sentito cose ben più importanti e più gravi che ci stanno in Italia, volevo quasi non dire più nulla, però ormai stavo in attesa. Vabbè Fabrizio, ti abbraccio, ho comunicato questa cosa anche ciao. A voi un abbraccio ciao, grande ciao, ciao. Saluti, saluti. Allora, a proposito però della Santanchè, all'inizio della trasmissione, quando è intervenuta da noi, ha detto alcune cose su Mussolini, non è mica ce le scordiamo le cose, le teniamo lì. Perché la signora Santanchè ha detto che Mussolini in fin dei conti ha fatto bene, ha fatto delle cose è molto meglio positive. Quando parla per di vestiti la Santanchè. Mussolini ha fatto degli errori, ma ha fatto tante cose che sono state buone, poi ha commesso un errore fondamentale, tante cose buone, con Hitler, se no sarebbe stata un'altra storia. Luce e ombre, ma luce insomma ombre. Chi è italiano e che non riconosce che ha fatto delle cose giuste e non conosce la storia. A proposito, i nostri funzionari comunali non è che sono stati a riposo in questo periodo. No. Vogliono cambiare dei cognomi, i cognomi un po' scomodi. C'è un sacco di gente in Italia che si chiama Mussolini, cioè, tu per esempio, David Mussolini sarebbe straordinario. Sarebbe cioè, impossibile. David Mussolini, che faresti? Cambieresti cognome? Tecnicamente impossibile. Sì, però cambieresti cognome o no? Se ti chiamassi oggi Mussolini o no? Oppure diceva chi se ne frega. Se mi chiamassi Mussolini vorrebbe dire che comunque appartengo a quella famiglia lì e quindi. Ma magari no, ci sono tanti Mussolini, non ha niente a che fare con la famiglia Mussolini, cioè Mussolini, sì, Benito, eccetera. Bisognerebbe, sì, ma ti vergogneresti o no? Tu sì, ma quello, ma senza ombra di dubbio, però, mi vergognerei. Che male hanno fatto però quelli che si chiamano Mussolini, no, eccetera. Però sì, no, comunque, capisco anche i comuni che dicono: vabbè, tu ti chiami Mussolini, insomma, no, cioè cambia cognome, no? Sentiamo. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando il signor Mussolini. Che cosa ha bisogno, che ha letto in questo momento? Che non... Per una questione di immagine, di decoro, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi. Perché dovrebbe cambiare cognome? Non ho mica capito perché. Il cognome Mussolini è un cognome piuttosto, come dire, ingombrante. Cercate di cambiare cognome, mica io. Io devo cambiare cognome. E vieni qua a chiedere come mai, se lo spiega a te, sì, che ne so. Sì, brava signora, ecco, se no facciamo il telefono senza fili. No, perché non riesce a capire perché lui dovrebbe cambiare, perché lui non lo vuole cambiare, lui tu vuole tenere quello che ha. Ma non ha un telefono wireless? Aspetti un attimo che arrivo. Chi cazzo sei per telefonare a casa mia a dirmi che io devo cambiare il mio cognome? Allora, ma chi sei? Signor Mussolini. Ma chi sei? Se adesso lei mi dà un attimino di tempo. No, lei mi dà nome e cognome. E come sei? No, e come no, io mi chiamo Rinaldi e la chiamo dal comune, da Modena, e stiamo facendo una nuova campagna per tutti i comuni della provincia di Modena che cognomi che evidentemente creano qualche imbarazzo. Il suo, mi perdoni signor Mussolini, ma crea... Il mio porta qualche imbarazzo? Sì, evidentemente sì. Guardi che Mussolini ha fatto le pensioni, ha fatto le case popolari, invece voi stronzi li date agli extracomunitari. Ecco, guardi, voi no, moderi, moderi, moderi, no, ma io non ho detto, io non ho mica offeso. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Parlo col signor Mussolini? Sì. È disponibile a cambiare cognome? No, ho capito, ma lei chiama a casa mia dicendo delle illazioni. No, illazioni, non sono, no, mi perdoni, no, qua non ci siamo, non sono illazioni. Io le sto proponendo legittimamente un cambio di cognome. Io dico francamente, me non ho tanto tempo da perdere. Sì, sì, neanch'io, se per quello lavoro. Lei non lavora, perché se stava lavorando non ha tempo di chiamare un'utenza privata. Basta dirlo, io... non le fa né caldo né freddo, me lo dice. Lei non ha capito. Non ho capito, mi io le sto dicendo che a prescindere dalla questione storica, noi questo cognome, io, cioè, era a prescindere che era un personaggio famoso o meno, a me non fa né caldo né freddo. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando il signor Mussolini. Non c'è. Quando posso trovarlo? Non lo so. Beh, avrà un'idea forse di quando torna. Ma che ne deve fare? Signora, c'è da cambiare il cognome. Noi, già è stato cambiato. Fa Mussolini, no. Quindi fate voi le ricerche dove dovete andare. Noi facciamo Mussolini, no. No. Allora, sms che mi ha mandato Salvini, che dice non è più della Lega questo signore. Bene, bravo, meno male. Non è più della Lega perché si bene. Non è più della Lega, lista civica, non ha rinnovato la tessera. Buona notizia, bene. Buona, è uguale. Buona notizia per la Lega almeno. Sempre consigliere comunale, sì, di Borghetto Santo Spirito, che ricordiamo per chi non lo sapesse, ha scritto una lettera in cui appoggia un prete pedofilo, cioè non vuole che se ne vada, appoggia. Non è che appoggia gli atti di pedofilia, attenzione, sennò questo qua poi rompe i coglioni, ma può rompere i coglioni quanto vuole. Però dice, no, non è stato bravo come parroco, resti qui. D'altra parte questo è andato dal Papa, cioè non... adesso la follia non è manco di questo consigliere che pure sa le cose, dunque non dovrebbe scrivere questa lettera, ma è anche della Chiesa. Se questo qua che è stato condannato per pedofilia viene, addirittura va con il Papa, tu capisci che è un problema, no? Che non... Ma no, ma certo, ma è evidente, a parte no... Ti fa capire quanto non ci siano filtri attorno a questo Papa, tra l'altro, giusto? Sì, sì, Danilo da Roma. Danilo da Roma. Danilo, pronto? Dai, dimmi. Pronto? Dimmi. Sì, ciao Parenzo, ciao caro Giuseppe. Ascolta, guarda, è una cosa molto semplice. Hai presente questo consigliere comunale che ha citato, questa difeso questo parroco? Sì, io dilla, fermo restando che non so se è vero o meno, ma se è vero, presente, hai presente quando vanno ad arrestare un cosa non è vero? Cosa non è vero? Scusami. No, se è vero che il sacerdote è pedofilo, ha messo il concetto. Scusa, io leggo qui da una rete, una cosa pubblicata dal secolo XIX. Come ricordato sul sito dell'associazione Rete l'Abuso, Don Zappella è stato condannato nel 91 a Pinerolo per atti di libidine violenta e danni di due minorenni sotto i 14 anni. Penso che sia passato in giudicato, perché 91 a Pinerolo, vabbè, che in Italia. Allora, questo consigliere comunale si dovrebbe assolutamente dimettere per un semplice motivo, che se questa persona sta difendendo un pedofilo, è la stessa stregua di coloro che quando vanno a arrestare, faccio un esempio, quando vanno a arrestare un camorrista o un mafioso, ci sono un sacco di persone intorno che fanno, che lo difendono quel camorrista, perché magari gli ha fatto del bene, gli ha dato dei soldi, piuttosto che non gli ha fatto più o meno dire. Più o meno uguale, anche è uguale, quindi quello, siccome ha fatto del bene, seppur vero che l'ha fatto, non lo so se l'ha fatto o meno, fatto sta che comunque c'è una condanna in piedi, giusto? Sì, certo. Quindi è meglio che se ne vada direttamente a casa, lui e il consigliere comunale. Ciao, Domenico, Bari, dai che siamo in chiusura, vai Domenico, veloce. Buonasera, niente, io intervenivo sulla questione del morto nel cassonetto, anche delle persone che sono state sparate in casa. Io credo che le leggi siano una sorta di patto fra le persone che compongono la popolazione. Quando uno delinque, di fatto rinuncia, ripudia questo patto, e quindi lui non si possono applicare le norme che si applicano al resto della popolazione. E dunque? E dunque, sì, però, se uno questo qua viene sparato in casa... Sì, però... non puoi applicare l'omicidio o l'attentato omicidio esattamente come uno che lo fa per altri motivi. Sì, questa è un'interpretazione un po', come dire, assolutamente personale della legge. Cioè, se uno spara, ma io sono, per carità, lo sai come la penso su questa cosa qui. La follia è che l'Italia consente a uno di fare causa a un'azienda. Ma non è che ti consentono praticamente di ricattare un'azienda, perché tu gli dici: quello lì è morto, noi ti chiediamo dei soldi per non mandarla alle lunghe, per non andare in tribunale, per evitare la di la lite temeraria. Adesso non ti voglio annoiare. È una follia. Questo qua è morto nel cassonetto, andasse a fare in culo lui e i suoi familiari, era un ladro. Purtroppo può succedere che se tu vai a rubare in un cassonetto te casca il cassonetto addosso e crepi, chi se ne frega, cioè, per carità, può dispiacere per la vita, quello che vuoi, rubavi, incidente sul lavoro, a domani, ciao. La zanzara è come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è ti manca.